una battaglia. Sto usando di nuovo lo sciule, comunque buonasera, anche se la giornata è quella che è. Beh, buonasera. Sono ritornato come prima, dai. Ehi, e tu, in casa, senza fare niente? Purtroppo sì. Oggi è una giornata, mi sa che mi faccio la freddimmi. Non ho capito quello che hai detto. Ho detto, in base alla giornata, mi sa che mi faccio un po' di freddimmi. Ma così è. Ancora in vita. E cosa vuoi fare? Giornata brutta. Io non ci ho pensato a prendermi la situazione, se non me l'avrei fatta pure io. E io ce l'ho perché ne ho preso due pacchi, capito? Ne ho fatto due volte e posso fare anche la terza. Però ci arriva a 200 grammi. Andrà bene Meda. Andrà bene Meda. Provo in manesciola, canale. Sì, infatti, tutto deserto. Canale dei morti, dei morti. Tutti morti. Andrà bene Meda. Mi dà picchi positivi. Ma cosa stai usando? 23 canali C1800. Quei vecchi vecchi. Ma un microfono preamplificato. 1000 euro. Sto facendo un bel foro. Sto usando lo sciure, Natalie. Era un po' in parcheggio. Poi non riuscivo a fare l'attacco ieri. Alla fine ho detto, per forza non esco. Manca la batteria. Poi l'ho tolta da dove l'ho messa e l'ho rimessa qua. Ma è di lusso? Come amplificherò? Potresti abbassare un po', perché è troppo forte. Vediamo un po'. Ecco, così va bene. E fa un passaggio più lungo, a vedere come la radio. K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono passato proprio. Adesso è quella metà, più o meno. Com'è? Mettici un punto di attacco e non toccare più nulla. Che ti rompe le orecchie, però è chiara la radio, funziona bene adesso. Si capisce bene, era troppo forte poco fa. Cappa, la volta è dietro, come hai messo il microfono non lo tocco più, ma non preoccuparti. Lo lascio così. Via, va benissimo quello lì adesso. Ho visto che lo piazza bene, dai, meno male. Dopo tanto, andrà bene Meda, infatti mi si prendeva il cuore, ha buttato una parte, lo vedevo lì poverino. E allora non funzionava, ce l'ho per la batteria, tu pure. Ero dimenticato che l'avevo tolta, Cazzo, per forza non è, io ero grillo. Sì, le come, di lusso. Cazzo. Neanche ieri mi ha detto che stavo uscendo bene, quindi faccio va bene così, dai, più o meno. Andrà bene Meda. Che giornata brutta. Fea è. Io ho acceso adesso, perché l'ho coricato, me ne sono alzato poco fa. Ma io stamattina mi sono fritto un pezzo di pavimento della mia parallela, campagna. E due o tre giorni fa mi ha tolto tutto quello che si era spaccato, gli ho fatto il massetto, poi l'ho messo il latte cemento, poi l'ho messo il collante e stamattina l'ho messo le mattone messe con il collante, un po' poi uscito. Anda bene Meda, abbiamo indagato che tanto. Infatti non ho sentito altro nessuno perché ho appena acceso, poi non lo so se c'è qualche morto all'ascolto. Qualche fantasma. A quest'ora. Cosa vuoi che dica? Vabbè Tony, ti saluto che mi devo assentare, che devo fare una cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, dai. O più tardi se ci sei. D'accordo, vatta lì. Buon proseguo, allora ci sentiamo. Ciao, saluta Corea. Ciao, ciao. Ciao, altrettanto, ciao. Chi è avanti? Chi è con questo bip avanti? We'll be right back.